Zelog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Prendete il cammello e tornate a casa! Secessione! Secessione! In Veneto vivono 5 milioni di italiani. Venezia non esiste più come capitale di riferimento, sarà una capitale storica Venezia. Intendiamo dare una nuova idea di nazione napoletana. 12.000 firme per un nuovo referendum. Si chiede ai sardi un parere sull'indipendenza della Sardegna dall'Italia. Italiani che lavorano più degli altri, pagano più degli altri, muoiono più degli altri. L'Italia sta perdendo pezzi. Ma questa un po' può essere un'impressione. Forse nessuno ci fa caso, forse siamo stati in parte saturati da questa idea folcloristica, da Sagra della Porchetta, della Grande Padania, poi c'è stato il Trota, poi ci sono stati i cerchi magici, poi c'è stato tutto un insieme di cose che ci ha fatto pensare, beh, abbiamo scherzato. Ma al di là delle istanze più note, della più facile disquisizione che si può fare sulle istanze separatiste, in effetti si avverte, ma si avverte in maniera del tutto sotterranea ancora. I grandi mezzi di informazione non lo stanno registrando con decisione perché sono molto occupati a occuparsi, a guardare, a osservare quello che è il fenomeno europeo. Ma in Italia comincia a esistere una sorta di sentimento di scissione, ma di scissione non saprei nemmeno ben definirlo, e forse in questa puntata chiederò l'aiuto degli ascoltatori per confortarmi o per corroborarmi con la loro esperienza su quanto loro si sentano in desiderio, in voglia, in procinto di staccare, di creare qualcosa di staccato che racchiuda i propri affetti, la propria visione della vita, le persone con cui si sentono di avere qualcosa in comune e voglia di ricominciare. Io ho per puro esperimento messo ieri nel profilo Facebook Melog Radio 24 questa idea: l'Italia perde pezzi. Hanno cominciato a scrivere persone, qualcuno ironizzando, dicendo io vorrei fare un'Italia semplicemente con le persone del mio quartiere, altri portando motivazioni di più vasto respiro e maggiormente anche supportate da dati. Ma l'idea generale è che ognuno comincia a pensarsi una propria Italia, una propria patria, un proprio paese fatto su propria misura, perché in realtà l'immagine generale è quella che si legge sui giornali, quella raccontata alla televisione, è quella dei grandi problemi legati a situazioni che contaminano la nostra realtà con quella di altri paesi, sembra non più corrispondere a quello che è un desiderio interiore. Io ho visto, ho fatto una piccola indagine in rete, ho guardato un po', ho visto qualche sito, in particolare mi sono fermato su un sito che si chiama nocensura.com, che mette insieme alcuni dati non originali, presi da altri giornali, altre osservazioni. L'idea è che il fenomeno immigrazione, che tanto sembrava spaventare gli italiani, comincia a essere in leggera flessione. Cominciano ad essere meno gli immigrati che vengono in Italia. Siamo arrivati a un 7%, sembra si stia fermando, anche perché cosa vengono a fare. In realtà quello che è il vero fenomeno è che gli italiani si stanno staccando dall'Italia, cominciano a cercare altre Italie, altre patrie, patrie ideali in altri posti, in altri paesi. Panorama ha fatto un'inchiesta e dice che sono 2 milioni gli italiani, soprattutto giovani, che vanno a cercare risorse all'estero, possibilità di vita all'estero, di crearsi una dignitosa e soddisfacente esistenza. Questo dobbiamo aggiungere altri 500.000 pensionati, sì, perché è un fenomeno di cui parlerò poi più dettagliatamente in questa edizione di Melog. Persone che con la pensione sociale, con la pensione che ricevono in Italia, potrebbero stare a giardinetti, giocare a bocce e ballare al centro anziani la mazurka, in realtà se ne vanno in Kenya e fanno una vita decente, anche una bella vita, e quindi questa è un'altra fetta. E poi ci sono tutta un'altra serie di piccole realtà che noi vorremmo cogliere questa mattina, piccole di persone, gruppi umani, modi di pensare, etnie, se così vogliamo chiamarle, raggruppamenti che ci tengono molto alla loro tradizione, alle loro radici, che stanno cominciando a pensare di creare la loro Italia. Noi parliamo, io non ho un parere in proposito, non mi sento di dare lezione a nessuno, non mi sento di impugnare nessuna idea, nessuna ideologia, sono soltanto curioso. 800240024, anche voi fate parte di uno dei tanti pezzi che vogliono ricostruire la loro Italia, fatta a modo loro, su loro misura. noi ce ne andiamo anche per altri motivi storici e culturali. Gli altri non so cosa faranno, spero che facciano una gran guerra. Più lontano se ne andranno imprenditori e artigiani come Silvio Dalprà. Noi qui siamo proprio in mezzo e veramente non sappiamo cosa fare, siamo rimasti quattro gatti e probabilmente i più stupidi. Dalprà ha aderito a Passaporto per la Vita. Quello che state ascoltando è il trailer di un esperimento di creare un documentario che racconti il Veneto. Perché qualcuno dice, ma noi veneti siamo come i panda, solo che non abbiamo nemmeno il WWF che ci protegga, non abbiamo una nostra televisione, non possiamo far capire, far comprendere, noi siamo una realtà omogenea, non potendo permetterci una televisione, usiamo un sistema diverso, ci creiamo un nostro documentario che racconti il Veneto e cercheremo di farlo circolare il più possibile, almeno un pezzo di noi darà l'idea della sua presenza, la sua realtà per il resto d'Italia. L'ideatore e l'ispiratore di questo documentario Via col Veneto è Carlo Melina. Buongiorno. Buongiorno Gianluca, ciao. Carlo Melina è un collega, un giornalista, ci conosciamo pure, quindi non fingiamo di darci del lei come da Marzullo. Carlo, allora, come ti è venuta in mente questa idea? Come nasce? Soprattutto, tu sei veneto sfegatato. Cosa significa essere veneti? In cosa differisci da me, che sono umbro marchigian romano? Tu sei più simpatico di me, io sono un po' forse più noioso e più lavoratore, ma l'essere veneti non è una questione di carattere o come dire di atteggiamento. Essere veneti è una scoperta che bisogna fare ogni giorno, nel senso che l'identità veneta è stata annichilita da 150 anni di propaganda portata avanti da un'agenzia molto forte che è appunto lo Stato italiano, che attraverso la scuola pubblica e le televisioni italiane ha annichilito e distrutto quella che è. Quindi secondo te c'è un disegno reale e concreto di annichilire l'essere veneto, ma perché? Da cosa sarebbe ispirato? A chi dava fastidio il fatto che esista l'identità veneta? Dalla necessità di fare gli italiani. Di dare un'idea comune degli italiani. Distruggere le identità locali, e questo è quello che è stato fatto in Veneto, ma non solo in Veneto. In Veneto si è creata questa storia, questa leggenda dello stupido razzista evasore oppure del cavalier servente. Al sud si è inventata la leggenda del furbetto un po' criminale, quando non poi si sono raccontati i resistenti a quella che è stata l'invasione dei Savoia come dei briganti. Vabbè, queste sono storie, abbiamo già parlato, cioè i nostalgici del risorgimento sbagliato e via dicendo. Cerchiamo di essere attuali, Carlo, al momento, in un momento molto particolare in cui è molto difficile in realtà impugnare l'orgoglio nazionale, molto difficile riconoscersi in delle istituzioni. Escono fuori, quello mi sembra di aver capito, e tu me ne dai prova, perché un veneto che parla anche delle istanze meridionali già sembra un dato originale. Dici, i veneti ce li immaginiamo come una volta erano in tempi lontani padani che volevano fare un grande muro all'altezza del Po. Perché ce li immaginiamo così, Gianluca? Chi li ha raccontati così? Chi li ha descritti così? Chi ha creato questi stereotipi? Beh, i padani sono creati da solo e si sono ridicolizzati da soli e non hanno fatto bene a nessuno. Ridicolizzati dai giornali, forse i padani avevano qualche motivo in più degli altri per essere ridicolizzati, e su questo, per carità, forse hai ragione tu, però chi ha raccontato, chi racconta la realtà del Veneto, chi racconta la realtà del nord, le televisioni italiane, e come la raccontano? Col giornalista che insegue a Cortina un signore chiedendogli se lui è un evasore, con l'inviata che bussa sul finestrino del SUV chiedendo al guidatore quanto dichiara. Ecco, però spiegami, Carlo, qual è la novità rispetto... Questo è un discorso generale, potrebbe essere fatto oggi come anche 5 anni fa, 10 anni fa. In questo preciso momento che sta attraversando il paese, qual è la novità rispetto a questi movimenti che proclamano il loro desiderio di indipendenza? In realtà cosa vorrebbero i veneti? Perché vuoi fare un documentario che racconti i veneti? Io voglio fare un documentario che racconti la crisi in Veneto. Il Veneto è una delle regioni con residuo fiscale positivo che sostiene di fatto economicamente lo Stato italiano. Il residuo fiscale più o meno calcolato sono 15 miliardi o 20 miliardi all'anno. La percentuale di evasione in Veneto è molto più bassa della media nazionale, eppure questo Veneto, oltre a pagare per gli altri, è anche costretto a scontare un'immagine negativa. Prendiamoci, questo è forse un po' il motivo per cui adesso, in questo momento di crisi, in cui in Veneto ci sono numerosi imprenditori che perdono il lavoro, numerosi imprenditori che si suicidano, forse diciamo, ecco, la misura è colma e adesso è giunto il momento di raccontare davvero quello che è il Veneto. Allora, fermati un attimo, perché già stanno arrivando le telefonate. Intanto do il numero 80024 0024. Non partiamo partiamo dal Veneto, ma non ci fermeremo soltanto al Veneto. Filippo, buongiorno. Buongiorno. Eccomi qua. Io sono della provincia di Vicenza e sono da sempre un indipendentista veneto, diciamo. Io sempre, più che indipendentista, ma anche autonomista. Adesso io voglio uscire un po' dal folklore, dalla storia, oppure dagli vari stereotipi del Veneto. Sì, attualizziamo, diamo una notizia, esatto, su qualcosa che sia, esatto, attuale, perché sennò... Sì, senza dubbio. Allora, no, secondo me la cosa è molto semplice. Perché vogliamo l'indipendenza? Perché, come anche la vogliono i sardi, abbiamo visto anche i napoletani, i siciliani, perché lo Stato, lo Stato italiano, l'abbiamo festeggiato i 150 anni, no, l'anno scorso, in 150 anni ha chiaramente fallito. Perché anche tutta questa, la crisi, il debito, disoccupazione, pressione fiscale, le grosse differenze che ci sono ancora adesso tra nord e sud, cioè, e questo non è altro che la dichiarazione di fallimento dello Stato italiano. Adesso siamo addirittura in default, quindi non lo diciamo solo noi indipendentisti, ma lo dicono quindi anche... Nel momento peggiore chi ha risorse si stacca e dice poi se la nave affonda, no, peggio per gli altri. No, non è che si spacca, è perché proprio è lo Stato che ha fallito e l'unico modo per venirne fuori è, non dico un'indipendenza totale come sta chiedendo la Scozia o la Catalogna, ma almeno un'autonomia, perché se nessuna, ormai abbiamo capito che nessuna decisione che parta da Roma può dare a veneti, trentini, romani, napoletani, siciliani o sardi una soluzione a questa crisi o una soluzione a tutte queste differenze. Quindi c'è ancora l'impressione che esista... Anche come costo della vita. Filippo, c'è ancora l'impressione... Scusa Filippo, fammi parlare. C'è ancora l'impressione che esista una sorta di governo centrale che in realtà è arroccato, non so, su una classe politica, su un'egemonia culturale, mentale, economica, sociale, quello che volete, che però non tiene conto, pur essendoci un Parlamento che è composto da forze politiche che vengono da tutte le regioni d'Italia, non tenga conto di alcune istanze. Sentiamo ma Alessandro. Senza dubbio, ma senza dubbio, adesso le racconto anche un fatto. Sì. Anche le persone, anche i veneti che sono sono andati a Roma con le migliori intenzioni. Sì, ce ne stanno tanti. Una volta entrati nel palazzo del potere, sono diventati completamente servi di quel potere, e altri veneti che sono andati a chiedere, io adesso le cito un esempio qui a Vicenza, che il nostro segretario, il segretario di Veneto Stato, che è un partito indipendentista, prima era dell'UDC, è andato a chiedere da sindaco insieme ad un consorzio di comuni di poter trattenere il 20% dell'IRPEF per un progetto locale, e si è sentito rispondere da un vice ministro, un sottosegretario veneto, che non se ne parlava. Allora scusi Filippo, io riassumo velocemente quello che mi sembra aver capito. In realtà i portatori di queste stanze, adesso darò voce anche ad altre regionali, dicono: i nostri politici, pur essendo della nostra gente, essendo come noi, una volta che vanno a Roma, come se Roma ci fosse una grande seduttrice che cambia le persone, cambiano completamente, si omologano, non li riconosciamo più, e quindi è inutile mandare persone che rappresentino popolazioni, modi di pensare, identità culturali, perché come si va a Roma a contatto con questo luogo detestabile diventano tutti uguali. Alessandro. Ecco, buongiorno, io sono Alessandro, abito nella provincia di Bergamo, diciamo, nel profondo nord, e un po' avendo ascoltato gli interventi di prima, allacciandomi a loro per non ripetere certi concetti, è sicuramente per me queste istanze che prima magari sono partite dal nord, ma che adesso, diciamo, istanze localistiche di bisogno di autonomia, di gestione locale, che adesso avvengono anche in altre parti del paese, proprio su quel concetto di quello che viene fatto da Roma. Ma lei cosa vorrebbe? Lei che è bergamasco, cosa vorrebbe? Ma molto semplice, per noi bergamaschi fanno 100 km a nord, vanno a vedere come sono organizzate le cose in Svizzera e dicono: ecco, se le cose fossero organizzate così, le cose di per sé vanno. Ma vorreste fare una piccola Svizzera nel bergamasco? No, attenzione, un'organizzazione, ad esempio come la Svizzera, le istanze locali è che la gente localmente comincia a pensare, dico, chi gestisce meglio quello che dopo è il risultato finale della mia vita, e che quindi se il livello medio svizzera di un insegnante e di prendere 7.000-8.000 franchi e a te qua ti, al primo impiego e a te qua ti vendono il concetto, no, ma là la vita costa di più, ma sì, ma fammi pagare anche il doppio il mutuo. Quindi è chiaro, Alessandro, è chiaro, esattamente in linea con quello che dicevo prima, i punti di riferimento cominciano a essere centrifughi, non più verso il potere centrale, l'amministrazione centrale, l'orgoglio nazionale, le istituzioni che ci rappresentano, verso alcuni esempi che ci sembrano più calzanti ai nostri desideri. Nando dice buongiorno. Pronto? Buongiorno. Nando dice, per far vedere che non ci fermiamo soltanto, ma stiamo scendendo lentamente. Lei è un po' isolato da meridionale. No, beh, lei è presidente di Insorgenza Civile. Sì, volete creare delle macro regioni con doppia moneta. Lei da dove chiama innanzitutto? Qual allora, è? Io sono di Napoli, sono il presidente dell'Insorgenza Civile e portavoce della Confederazione. Ce ne abbracciamo quattro regioni del sud Italia, Calabria, Basilicata, Puglia e Campania. Noi, nel nostro programma c'è la sovranità monetaria, perché quando si parla di centralismo dobbiamo ricordare che oggi c'è un potere egemone. Però scusi, Nando dice esattamente Insorgenza Civile, perché lo sa, perché di cosa si tratta? Mi viene in realtà... Voi rappresentate in senso negativo lo stereotipo più logoro. Quando viene rappresentata l'Italia, viene rappresentata con un'iconografia molto vicina a quelle che sono le vostre caratteristiche locali e regionali. Adesso anche Napoli vuole staccarsi, vuole diventare una realtà a parte. In cosa si identificheranno poi gli italiani? Ma Napoli è la capitale del sud Italia, nel senso che è sempre stata capitale della Napoletania ed è stata capitale delle due Sicilie, quindi questa, al di là del fatto che non è un'invenzione, ed è un'istanza, diciamo, del futuro, perché vogliamo ricordarlo che non è un discorso localistico, vogliamo ricordarlo che l'identità è la risposta universale alla globalizzazione. Cioè, noi in Italia paghiamo il dramma di uno Stato bancario sotto dittatura del potere economico egemone. Quello che diceva Ida Magli ieri, un'antropologa di 85 anni. I partiti esistono perché esiste un potere economico che li sostiene. Faccio un esempio: negli ultimi 35 anni sono stati colpiti tutti i settori commerciali, industriali e via dicendo, produttivi. C'è un solo settore che ha sempre riuscito a salvarsi dai famosi tagli, è sempre riuscito a guadagnare sempre di più, e sono il sistema bancario. Quindi tutti i partiti hanno da 30 anni a questa parte favorito un sistema bancario. Poi mi faccio capire, dice, perché voglio capire un po' meglio. Questi movimenti spontanei di base che nascono su base regionale, legandosi naturalmente a proprie tradizioni, a propri modi d'essere, alla propria identità. L'identità di ciascuno di noi, ma mi ci metto anch'io, la mia identità di umbro, la sua identità di napoletano, l'identità di Melina Veneto, del signore Bergamasco, via dicendo, sono fortemente comunque rappresentate. In particolar modo la sua identità di napoletano è rappresentata addirittura nel vertice delle istituzioni nazionali. Quindi come si accede da napoletani al vertice delle istituzioni? Attraverso il filtro dei partiti che vengono finanziati da un potere economico che è centralista, che impone la moneta unica, che impone un sistema unico, che impone uno stato unico. Sì, ma io non vorrei entrare capisco perché l'Italia, che è diciamo storicamente frutto di una somma di grandi eccellenze identitarie, invece di uno Stato centralista si possa dotare di uno Stato confederato. Perché non fare la grande Italia all'interno dell'Europa con San Marino, Città del Vaticano, la Napoletania, il Veneto è una nazione, il Torino Stato? Perché fermarci a un'imposizione del potere economico che poi nella realtà, perché noi dobbiamo parlare della realtà di oggi, una qualsiasi legge che parte da Roma, quando poi viene applicata nei vari territori italiani, deve essere diversificata, perché la realtà è diversa, le infrastrutture che ci sono in Veneto non ci sono a Napoli. Quindi fondamentalmente qualsiasi cosa che parte dal punto di vista unitario, poi quando si va a scontrare con la realtà che loro hanno creato in 150 anni di occupazione di questo potere economico. Ma chi sono loro? Il potere economico. Ma il potere economico d'Italia, è scusi, no, cioè, sì. perché io non mi voglio addentrare in analisi di tipo economico, ma mi interessa molto di più alla radice cosa ci sia di tutto questo. Quando lei parla di potere economico, di Stato centrale, parla comunque di istituzioni composte da persone, persone composte anche da tutte le caratteristiche in parte che lei rappresenta. Non è che siamo governati da alieni che vengono da un altro pianeta. Non sono alieni i poteri economici, sono, le ho detto l'esempio delle banche, ma possiamo parlare degli Agnelli, possiamo parlare dei Benetton, possiamo parlare degli Gresti, possiamo parlare di tutti quei poteri economici che sono sempre a galla, cambiano i governi, dalla monarchia si passa alla Repubblica, dal fascismo si passa alla democrazia, ma quei poteri economici dall'Unità d'Italia sono intoccabili. Ma secondo lei come si risolverebbe questo problema? Chi è che dovrebbe a un certo punto fare la grande conferenza delle realtà regionali, locali? Perché, prima le realtà identitarie, perché noi dobbiamo uscire, almeno noi meridionali siamo costretti per genetica a uscire dal discorso locale. Sì, ma se lei va a Salerno già diranno che sono diversi da lei, se va a Caserta già sono diversi da lei, come pure Bergamo Alto e Bergamo Bassa, come Perugia e Terni. Sì, ma se vogliamo declinare l'identità, allora ci possiamo dividere anche fra quartieri e quartieri. Quello è fatto, se si comincia a frammentare... Se si impone a questi frammenti un concetto unico, c'è un'imposizione. Allora, il ragionamento che viene dal basso è che l'unità storica, l'unità sociale, l'unità politica e l'unità economica di popoli, va bene, deve ripartire dal basso, non deve essere impostata da Roma e quindi dal potere economico. Noi napoletani siamo per genetica transnazionali, abbiamo 30 milioni di meridionali nel mondo, noi siamo il movimento che rappresenta i meridionali ovunque essi siano, quindi diciamo, sganciamoci da questa logica dell'unità e poi della localizzazione. No, qua c'è una logica inversa, c'è la logica della globalizzazione che vuole imporre a tutto il mondo un meccanismo di sfruttamento e di consumismo dove l'uomo è ridotto a semplice consumatore. Però adesso stiamo andando sul generico, sta dicendo quello che potrebbe dire chiunque in qualunque piazza d'Italia, in qualunque oratorio, e farsi applaudire. Mi fermerei un attimo, anche perché devo dare la linea all'informazione della borsa, e ritornerei fra qualche istante con la domanda che avevo fatto prima. Di cosa vi sentite rappresentanti voi per poter dire usciamo dallo Stato nazionale in cui non ci riconosciamo più e creiamo tante piccole Italie, e ogni Italia rappresentata da quello che noi siamo? In cosa siamo diversi e qual è la diversità che fa sì che non possiamo sentirci un paese unico? Per la prima volta in migliaia e migliaia di anni i sardi possono esprimere se vogliono l'indipendenza o meno. Siccome non ce l'hanno mai chiesta, ma ci hanno sempre bastonato, picchiato, schiavettizzato e depredato di tutto, per questa volta sarà la responsabilità di tutti quanti di decidere sul presente e sul futuro delle prossime generazioni. Fantastico questo termine, schiavettizzato, che c'è in sé un senso peggiorativo rispetto all'essere schiavizzati. Lo schiavo in sé ha una sua dignità, lo schiavetto è qualcosa di ridicolo, di risibile, di grottesco. Stiamo parlando questa mattina di tutte le istanze di indipendenza, di separazione, di risentimento verso l'idea di potere centrale, anche quelle meno conosciute, che è un fenomeno che attraversa tutta l'Italia, avete sentito dal nord al sud, chi si rifà a tradizioni borboniche, ma questo è un argomento che abbiamo spesso e lungamente in maniera approfondita trattato, ma in maniera particolare in questo momento in cui il senso della crisi, il senso della vacatio della politica, il senso dell'incertezza, il senso del timore della perdita di una sovranità nazionale nei confronti di un potere finanziario, economico, non si capisce bene e non si intuiscono i margini e i limiti, porta a risorgere tutto quel desiderio comunque di staccarsi e di ricreare qualcosa che ci rappresenti. Abbiamo detto all'inizio, un grande fenomeno di fuga verso l'estero e un grande fenomeno di forza centrifuga dall'interno. Francesco Sedda, buongiorno. Buongiorno. Francesco Sedda è uno dei leader del nuovo indipendentismo sardo. Presidente del comitato Fiocco Verde, propone un'agenzia delle entrate sarda. Però Sedda, mi spiega innanzitutto la differenza e il punto di novità rispetto a quello che dal dopoguerra in poi abbiamo sempre sentito, dalla Sicilia in poi, parlare di moti indipendentisti o separatisti o di autonomia. Sì, ma in Sardegna è stato fatto un grande lavoro, soprattutto da una generazione più giovane. Io ho 36 anni, insomma, ormai diciamo così, ho rilanciato un'idea di indipendentismo quando avevo 22 anni, che si basava su una serie di concetti nuovi, quantomeno ha esplicitato alcuni concetti fondamentali che sono diventati oggi patrimonio comune nel dibattito politico sardo. Intanto la non violenza, il fatto che l'indipendentismo è chiaramente una forma di propositività, noi non siamo contro l'Italia ma siamo per la Repubblica di Sardegna, cioè abbiamo una visione diciamo così per qualcosa e non contro qualcosa. La Repubblica di Sardegna fuori dall'Italia comunque? Dentro l'Europa, come l'Italia e la Francia stanno dentro l'Europa o comunque insomma sono stati indipendenti che ovviamente condividono la loro parte della loro sovranità, ma ovviamente hanno una loro diciamo così esistenza come Stato. Quindi un europeismo ancora più accelerato rispetto a quello che può sentire un italiano inserito in questo momento in un'Europa di cui... Sì. Io credo che la Sardegna abbia e l'indipendentismo sardo esprimono esattamente un'esigenza di apertura, infatti il secondo principio su cui noi abbiamo lavorato molto è il non nazionalismo, noi non siamo per un'identità della Sardegna chiusa o rivolta al passato o alla ricerca di qualche essenza etnica, noi siamo per un'identità al futuro, un'identità inclusiva, un'identità cosmopolita, dunque... Ma lo dico, guardi, lo dico senza ironia, ma sì, sì. Non può essere che una volta... passato il principio della possibilità per ogni autonomia, per ogni capacità di delimitarsi nelle proprie differenze, inizi un processo inarrestabile, non so, che l'Asinara a un certo punto dica noi vogliamo essere indipendenti rispetto alla Sardegna, perché se anche siamo quattro persone siamo diversi, siamo staccati, siamo anche noi un'isola, e andando avanti sempre più nella parcellizzazione. Ma guardi, intanto non sta a me, non sta diciamo così a noi due decidere chi diciamo alla fine può, applicando un principio democratico, diciamo affermare la propria identità. Io credo che tuttavia ci siano dei punti di coagulazione, credo che a nessuno sfugga che la Sardegna sia un'isola, credo che anche alla persona più ignorante della storia sarda non sfugga che la Sardegna è un popolo che ha avuto una storia di nazione, che fra l'altro continua a essere fortemente sentita, viene di volta in volta, anche se in modo episodico, fatta proprio anche dalle forze politiche italiane. Beh, proprio in questi giorni è anche al centro di un problema la cui soluzione dovrebbe essere anche di carattere nazionale o di onere nazionale. Ma il fatto che quella soluzione non arrivi, che anzi colui che dovrebbe risolvere lo Stato sia parte del problema, perché di fatto quel modello industriale è stato calato pesantemente dall'alto per asservire interessi che non erano dei sardi, con certe complicità ovviamente, c'è una certa anche assuefazione diciamo all'assistenzialismo da parte dei sardi, dimostra che evidentemente gli interessi nazionali dei sardi sono altri, ovviamente sta ai sardi, e io sono per un discorso fortemente autocritico da parte di noi sardi, stanno i sardi a riprenderci delle responsabilità. La verità è che io ho l'impressione, me lo faccio dire anche da diciamo da studioso delle culture, che ci sia un vulnus, una difficoltà in Italia a pensare i processi di indipendenza senza pensare alla propria autodisgregazione. La Danimarca, che è un paese che si sente fortemente sicuro di sé, sta aiutando la Groenlandia in un processo di autodeterminazione. Ma non può essere, negoziata. Non può essere, evidente, in realtà abbiamo nel nostro non è che i sardi possono rinunciare a un proprio diritto. No, vuol dire, non è che nel nostro codice genetico, scusi Zeta, c'è l'idea che comunque è stato così difficile, così improbo, così faticoso, è costato tanto sangue mettere insieme l'Italia, che adesso rimettere in discussione questo crea comunque un senso di perplessità. Io lo dico chiaramente, io credo, non sono di quei sardi che vogliono spaccare l'Italia, io penso l'Italia sia un paese bellissimo e meriti molto di più di quello che ha adesso e che ha avuto. La questione è che la Sardegna è un'altra cosa, la questione è semplicemente che la nazione italiana esiste, ma la nazione sarda è un'altra cosa, è un'altra storia. Ovviamente sta ai sardi vedere se questa potenzialità che loro hanno, questo diritto storico che gli è loro riconosciuto, perché la Sardegna è diciamo vista a livello diciamo così europeo come... Ma come la mettete con tutta quella parte di Sardegna che ormai non appartiene più ai sardi? Diciamo è stata venduta qua là in varie epoche a varie persone con tanti soldi che compravano le parti più belle e le blindavano e facevano loro. Questo diciamo fa parte delle dinamiche del potere, ovviamente uno Stato sardo serve anche per riavvicinare la sovranità al popolo sardo, riuscire a ricostruire una dimensione di diciamo così di prosperità dei sardi, che ovviamente in parte è sfuggita, ma questo non è diverso da molte altre espropriazioni che avvengono anche in stati esistenti. Cioè, allora, fermiamoci un secondo, scusi, voglio dare voce a qualche telefonata, poi lei mi aiuta a commentarle. Joseph, buongiorno. Buongiorno. Lei da dove chiama? Io chiamo da Roma. Sì, però è cecoslovacco. Sì, esatto, sì, nel senso che io vivo in Italia da oltre 40 anni, mio padre era ceco e mia madre era slovacca, sì. E cosa da aggiungere rispetto a quello che stiamo dicendo? Ma noi? Io volevo dire questo, in questi giorni praticamente ricorrono quasi 20 anni da quando la Cecoslovacchia si è divisa in due stati indipendenti, la Repubblica Slovacca e la Repubblica Ceca. È stato, diciamo, un processo legale, è stato un processo pacifico, tranquillo, e possiamo anche dire che tutto sommato oggi come oggi i rapporti fra le due nazioni siano migliori di quello che era prima. Quello che io voglio dire a tutti coloro che in Italia stanno parlando della secessione, della separazione, che anche in questo caso, cioè che se veramente le cose avvenissero in maniera così legale, tranquilla e pacifica, ci sarebbero dei costi da pagare enormi, non soltanto dal punto di vista, diciamo, umano, perché ci sono matrimoni misti, ci sono questioni, diciamo, legali. Ma lei dice matrimoni misti come se fossero delle differenze così profonde, radicali, addirittura quasi fisiologiche, genetiche, matrimonio misto, cioè fra un veneto e un bergamasco, una bergamasca. No, vabbè, io stavo parlando in quel momento praticamente fra cechi e slovacchi, cioè praticamente poi a un certo punto bisognava scegliere la nazionalità, scegliere dove vivere. Da un punto di vista civile, sì. Sì, esatto, no, solo queste cose qua. Però soprattutto volevo dire questo, la Cecoslovacchia era un paese, diciamo, di dimensioni medie, erano circa 16 milioni di persone, di una posizione strategica. Sono nati due stati, come riconoscono oggi anche gli artefici della separazione pacifica, che se la cavano, devo dire, abbastanza bene, però sono due paesi che non contano molto, perché sono due paesi piccoli e siccome viviamo in un mondo reale, voglio dire a coloro che pensano che sarà una cosa bellissima quando ci sarà un Veneto, una Lombardia, una Sicilia, un Napoli indipendente. Ne saranno tanti piccoli paeselli, dice lei. Esatto, cioè alla fin fine potrebbero rendersi conto che ubbidire o sentire uno da Monaco di Baviera, da Berlino o da Parigi sia più pesante di sentire qualche burocrate un pochettino lento. Dalla Repubblica di Bergamo, dalla Repubblica di Napoli, ecco. È utile quello che ha detto, interessante per riflettere. Monica. Pronto? Buongiorno Monica. Buongiorno Gianluca. Allora, prima cosa, io sono meridionale, ho 46 anni. Meridionale di dove? Perché meridionale... Guarda, io sono nata in Calabria, sono 30 anni che vivo a Roma, quindi fondamentalmente faccio una professione libera a Roma e ho due opzioni da fare sentendo la vostra trasmissione. Uno, penso che sia necessario vivere l'identità come un'opportunità, nel senso che a me spesse volte capita di andare fuori e nello stesso luogo con gente della stessa estrazione sociale ma di provenienza regionale diversa, io vedo essenzialmente un comportamento diverso. È semplicissimo, se io metto nella stessa situazione un napoletano piuttosto che un calabrese o un milanese, io vedo che la risoluzione di quel problema, lo affrontare quel problema, ha una dimensionalità e un vissuto completamente diverso. Vabbè, grazie a Dio non siamo tutti uguali, grazie a Dio il territorio influisce su di noi. Infatti io ne vedo più che altro una opportunità. E una seconda notazione, io faccio una professione dove viviamo moltissimo di norme regionali, si sa benissimo che in materia di urbanistica, edilizia si legifera a livello regionale. Io già nel 2012, se io dovessi fare la mia professione a Milano, io non avrei enormi difficoltà perché mi devo raffrontare in qualche modo con una normativa completamente diversa. Allora dico, visto che è uno Stato nazionale, non mi ha dato opportunità di risoluzione anche a livello economico, sociale, educativo, non ne parliamo della scuola per carità, allora perché invece non vedere l'identità proprio regionale come un valore in più, cioè un valore non solo che mi legifera, ma mi dà la possibilità di raffrontarmi rispetto al mio vissuto. Lei parla di una regione con un problema in più rispetto a tante altre regioni, anche se il problema è un po' diffuso, una regione in gran parte appaltata da un'organizzazione di malavita organizzata abbastanza importante, quindi c'è una fattispecie drammatica di difficoltà di gestione. L'indipendenza secondo lei favorirebbe o attenuerebbe questo problema? Attenuerebbe, perché le posso dire che c'è una realtà di persone che vorrebbero fare molto di più. La mia generazione è stata una generazione che è andata via da gente che facevano le professioni nel nostro territorio. I nostri genitori, pur di non farci offrire determinati caffè, mio padre era un professionista e diceva: io per non farti prendere un determinato caffè da determinata gente è meglio che vai fuori. È molto chiaro, devo dare la linea alle informazioni del traffico, però anche lei conferma quello che stiamo dicendo sin dall'inizio. Quando esiste l'idea di voler ricostruire qualcosa che sentiamo appartenere più a noi, al nostro territorio, o a un'immagine del nostro territorio, non è quella che stiamo vivendo, cerchiamo di ricostruirlo da altre parti. Vedo che in ragione di quello che avevo appena detto all'amico sardo, già mi stanno scrivendo sms, un abitante di Ustica vorrebbe l'indipendenza dell'isola di Ustica, altri dicono che la Sicilia potrebbe essere un piccolo Lussemburgo, altri parlano del Veneto, ognuno naturalmente colloca i confini della propria utopia individuale in una terra che non esiste, i cui confini vanno ridisegnati. Sì, anche io vorrei una mia Italia fatta solo con le persone che mi stanno simpatiche, dove tutti sorridono, dove ci sono i servizi, non ci sono persone antipatiche, dove c'è sempre il sole, dove ci si occupa delle persone che hanno più bisogno ci si occupi. È vero, sì, e questa è una lecita aspirazione personale, ma come si può tradurre poi in un progetto politico? Marcello, buongiorno. Buongiorno, voglio semplicemente dire questo, che le forme di indipendenza e comunque ogni forma che tende a portare o che vuol provare a portare valori considerabili positivi, nei quali mi aggrego, però sono accette. Ora però quello che vedo è una sclerosi di indipendentismi locali, nel senso come se io avessi un giardino dentro un condominio e il mio condomino vicino a fianco butta le sue foglie nel mio giardino. A questo punto voglio fare un condominio separato. E questo è quello che sto vedendo. L'idea è questa, infatti abbiamo raccolto tutti questi desiderata, li stiamo raccogliendo, li sto leggendo, sono pieno di sms. L'idea è un po' questa: se si parte con l'idea che sia possibile, sia tecnicamente possibile, non ci si ferma mai, non ci si accontenta mai, non ci basta più l'indipendenza di un territorio. Ogni territorio ha la sua parcellizzazione, ogni regione, ogni città, ogni provincia, ogni comune, ci sono quelli della parte alta e la parte bassa del paesino che già sono diversi, quelli che abitano al piano alto, alla scala A, alla scala B già sono diversi. Però a questo punto vorrei portare un'esperienza ancora più singolare rispetto a tutte quelle che abbiamo toccato. L'idea di un territorio che in realtà è un territorio dell'immaginario, non è più un territorio delimitato da confini di terra nazionale, ma l'idea di nazione si fa laddove le persone sentono rappresentative di un valore, di un'idea, di un modo di pensare. Andrea Zucchi, buongiorno. Buongiorno a lei, Nicoletti. Allora, Andrea Zucchi, lei è il capo in testa di un sorta di progetto di esilio volontario di imprenditori verso Londra. Ecco, ci racconti la sua storia. Ma tutto nasce da una considerazione sulla mia identità. Io mi sono accorto che dal 90, forse anche da prima, io sono un disadattato sociale, questa è la mia identità. Non sono né emiliano né italiano. Sono una persona che ogni volta che sente parlare qualcuno che rappresenta la classe dirigente di questo paese, alla fine si chiede se questo ci è o ci fa. Dopo un po' mi sono accorto che non era importante stabilire quale delle due fosse la verità, perché il risultato era che la mia vita veniva devastata da altri. Quindi lei non è che impugna un orgoglio territoriale, per lei è indifferente essere nato a Bergamo, essere nato a Vicenza, essere nato in qualunque parte del mondo. Ma guardi, io mi considero un normale fenomeno elettromagnetico, una specie extraterrestre, come tutti, sono caduto in un posto, è un fatto assolutamente casuale, le radici ce le hanno le piante, io sono una persona. Lei in che posto è caduto e cosa fa? Cosa faceva perlomeno? Poi io sono caduto in Emilia e faccio il commerciante, di fatto facevo perché sto liberandomi di tutto. Ecco, lei è passato alla nostra misera storia raccontata alla televisione perché un giorno durante un programma televisivo si è alzato, ha preso le chiavi del suo negozio, l'ha sbattute sul tavolo, ha detto: beh, domani andatelo a aprire voi il mio negozio. Perché ha fatto questo? Perché era il momento in cui era fortissima la notizia quotidiana di suicidi tra gli imprenditori, e il pensiero collettivo sembrava essere ridotto a siamo in un fiume in piena che sta andando verso una cascata, quindi o ci lasciamo trascinare dalla corrente o nuotiamo controcorrente. Io ho semplicemente detto io esco dal fiume, accomodatevi. Ma è vero che lei sta organizzando un esodo di 500 imprenditori verso Londra? Dunque, non è esattamente così, ma quasi. In realtà attorno a un pensiero di questo genere. Lei adesso l'abbiamo chiamata, sta a Londra in questo momento? In questo momento sono in Italia, sono appena tornato da Londra. La situazione, cioè la mia visione della vita è che la retorica dell'appartenenza non mi porta da nessuna parte. Io ho provato a proporre un concetto che è quello di accettare l'idea che il mondo è questo, proviamo a vivere il mondo e proviamo a cercare di costruire una libertà personale e di impresa che si potesse confrontare col mondo laddove fosse opportuno. Londra è un fatto occasionale, è un punto di partenza. Per noi il mondo è tutto uguale, si può andare a lavorare dovunque. Quindi come i padri pellegrini voi prenderete e partirete in 500? Al momento siamo un centinaio perché che hanno aderito concretamente all'idea e quindi si sposteranno da questo paese. Cioè, ma questo è reale, effettivo, diciamo, non è una notizia data per chiare clamore. Cioè 100 imprenditori italiani si sono consorziati, messi d'accordo fra di loro e se ne andranno tutti a investire a Londra. Chiuderanno in Italia e andranno a Londra. Non tutti a Londra, partiremo da Londra, perché poi diciamo la declinazione dell'attività, del business, si fa secondo i criteri di buonsenso e di funzionalità. Londra è un buon punto di partenza, andremo un po' in tutto il mondo, tenuto presente che l'esperienza di questi anni italiana ci ha insegnato che non esiste posto stabile, non esiste posto senza crisi. Però chiudete bottega in Italia, questo drasticamente, sì. Ma qualcuno già l'ha fatto? Sì. Sì, diversi hanno fatto, diversi lo stanno facendo, tempo pratico, materiale di fare le cose. È uno dei pochi modi legali che abbiamo di smettere di alimentare questo Stato, come dice il suo collega Giannino, tassicodipendente. Ma cosa fate? In sintesi cosa farete? Cioè lei aprirà il suo negozio in un'altra città? No, non necessariamente. Qualcuno resterà a fare il lavoro che sa fare, apriremo magari ristoranti, apriremo attività, abbiamo un gruppo di ricerca che si sta occupando di mettere a punto idee innovative dal punto di vista industriale. La cosa interessante è che nel momento in cui esci dal fiume e smetti di pensare all'italiana, il mondo ti si rivolge con riguardo, con rispetto e ti offre anche possibilità. Ecco, ma qual è la novità rispetto a tanti imprenditori che decidono di andare a portare un'attività all'estero? Voi vi siete consorziati, associati, siete un gruppo di opinione, come vi definite? Ma siamo un gruppo di persone, la novità è che noi l'abbiamo detto, perché questo paese è stato abbandonato dagli imprenditori più avveduti a partire da 79, da quando hanno fatto le regole del lavoro, le normative del lavoro. Ma avete un referente politico? In cosa vi identificate? Assolutamente in nulla. È il tabula rasa tutto ciò che in Italia può essere considerato rappresentativo di un'idea, di un modo d'essere, di pensare. Diciamo che l'Italia ci serve come modello negativo. Tutto quello che in Italia si rappresenta come opportuno, intelligente, utile, serio, socialmente opportuno e vantaggioso, ecco, basta pensare il contrario che nel resto del mondo funziona. Mi sembra molto chiaro e molto lapidario come principio. Abbiamo dato l'idea di quello che è un argomento su cui torneremo molto spesso. A domani.